Baby, andiamo via di qua. Nessuno si spenderà. Baby, andiamo via di qua. Nessuno si spenderà. Ti faccio vedere la mia collezione di farfalle. La mia collezione di farfalle. Prese al volo, 15 anni di spalle. Spalle. Vive la mia collezione di farfalle.